Riassumere dal punto di vista islamico. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Spero di essere utile stasera per voi. La memoria nel Corano. Chi ha letto il Corano ha notato probabilmente una cosa molto frequente, è quella del ricordo delle rivelazioni precedenti, dei profeti precedenti, dei popoli precedenti, molto frequentemente. E qui ci sono tanti versetti, eccetera, non voglio farvi perdere tempo per poter ricordare altre cose perché sono 20 minuti, volano subito. Ma comunque in maniera dettagliata molte volte, al punto che nel Corano qualcuno pensa che il nome o il profeta più ricorrentemente ricordato nel Corano sarà Maometto, Muhammad, invece no, è Mosè. E così altri, Gesù, naturalmente, Maria, Giacobbe, e così via tutti gli altri profeti. E perché questo? Cioè, è così per caso, per raccontare una storia, oppure? Invece no. Quasi sempre, alla fine di quei versetti che ricordano quei profeti lì, quelle rivelazioni, Dio ammonisce alla fine affinché vi ricordiate, è un monito per voi affinché ricordate questo, quello, quell'altro, cioè il ricordo di tutto quello che è avvenuto prima di noi, prima dell'ultima rivelazione, affinché non va perso neanche per i musulmani. E a qui. Al punto che, dal punto di vista del credo, dover dire che credo dal profondo del cuore in Mosè, Gesù, Isacco, eccetera, eccetera. È una memoria, è un ricordo nel senso generale della parola. Ma anche nel senso specifico, cioè nel senso generale, come abbiamo detto, ricordare tutti questo Corano, per esempio un versetto dice questo Corano è un libro che è stato fatto scendere su di te affinché con esso tu ammonisca e sia un ricordo e una memoria per i credenti, un ricordo e una memoria di quello che è successo prima, avvenuto prima e quello che succederà anche dopo. Un versetto molto ricordato dai musulmani è il seguente: Wadhakkir, lei che conosce l'arabo, Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ricorda a loro. Che cosa? Tutto quello che è successo prima, durante, quello che succederà, le lezioni, eccetera, perché la memoria è utile per i credenti. Fa inna dhikra, la memoria sarà sicuramente utile per i credenti. D'altra parte, in un altro versetto dice: Nasullaha fa ansahum anfusahum. Si sono dimenticati di Dio. E così Dio li ha fatti dimenticare se stessi, non si riconoscono più, hanno perso la loro identità, nel senso per dire, quando dimenticano il loro creatore. E così via. Il significato dell'Islam, appunto per ricordare che tutte le rivelazioni, per noi tutte le rivelazioni hanno ricordato alla gente, ai popoli, di essere musulmani, Musulmani, cosa vuol dire? Essere obbedienti a Dio. Il musulmano, colui aslama, ha obbedito. Musulmano, colui che obbedisce. Non maomettano, che non esiste nell'Islam questo termine, questa denominazione. Il musulmano, colui che si sottomette a Dio. In senso generale, appunto, dite crediamo in Dio e in quello che è stato fatto scendere su Abramo e su Isacco, Ismaele, Giacobbe, Mosè, Gesù e in tutto quello che è stato fatto scendere sui profeti da parte del loro Signore, non facciamo differenza alcuna tra di loro e a lui siamo sottomessi. in generale, però qualche identità la deve avere il musulmano, l'ebreo, naturalmente il cristiano, il credente specificamente. Per esempio, nel Corano è ricordato, il digiuno è stato richiesto dagli ebrei, dai cristiani, dai credenti in passato, ma non sarà lo stesso digiuno che è richiesto a voi è richiesto in maniera particolare, in una forma particolare, la preghiera è lo stesso, pregavano in una certa maniera, ognuno pregava, ogni popolo, ogni rivelazione ordinava di pregare, ma la preghiera islamica è diversa, perché ogni popolo, ogni rivelazione chiede una certa identità, realizzare una certa identità secondo i tempi e i momenti. Il Corano, quando viene ricordato, viene ricordata la Sunna, perché il Corano e la Sunna sono la memoria dei musulmani, non solo il Corano. Il Corano è la parola di Dio, ma la Sunna, la parola del profeta, che completa la parola di Dio. Entrambi sono la memoria, che conservano la memoria, diciamo, per i musulmani. All'inizio, qualcuno sa probabilmente, il profeta proibiva di trascrivere i suoi discorsi, perché sia la parola di Dio in primo ordine sia trascritta e ricordata. Poi, quando la parola di Dio è stata trascritta col tempo per distinguere, insomma, tra la parola di Dio e la parola del profeta, ha permesso. Rivelata, nel senso, la parola di Dio è un riferimento, è una memoria, è un ricordo, è un insegnamento, è un punto di riferimento, ma non è una prigione, cioè questa memoria non deve essere una prigione, nel senso il Corano, la Sunna, gli insegnamenti del profeta, devono essere una memoria, un punto di riferimento, un insegnamento insostituibile naturalmente, ma non devono essere una prigione per il credente, per il musulmano. Una volta il profeta, mandando un suo rappresentante nello Yemen, il famoso compagno del profeta che tutti i musulmani ricordano, Muadh ibn Jabal, gli ricordava: «Oh Muadh, con che cosa predicherai, con che cosa giudicherai tra la gente?» Diceva, rispose questo compagno del profeta, col libro di Dio, con la parola di Dio naturalmente. E il profeta continua: «E se non trovi nel Corano quello che cercavi, quello che cercherai?» Vuol dire che cioè il Corano, la Bibbia, i Vangeli, eccetera, secondo noi, cioè, non è che contengono tutto quello che Dio ha voluto dall'umanità. «E se non troverai nel Corano?» Dice: cercherò nei tuoi insegnamenti quello che ho imparato da te. E il profeta continua: «E se non trova nei miei insegnamenti quello che cercherai?» Perché sarà una nuova realtà, una nuova situazione. «Cercherò, mi sforzerò di trovare una soluzione, mi inventerò qualcosa, userò il mio intelletto». E il profeta, così contento di questo compagno, batté sul petto e disse: «Grazie a Dio, lode a Dio che ha guidato il mio messaggero a quello che mi accontenta», o qualcosa del genere, adesso il termine mi sfugge, per dire che ricorderai il Corano, ricorderai i miei insegnamenti, ma ti sforzerai a trovare soluzioni secondo la memoria non deve, ecco, questo, la memoria non deve essere una prigione, un qualcosa di chiuso, di statico, di che impedisce eventualmente una certa evoluzione. Il sacro non imprigiona l'azione, perché è dappertutto. Gli insegnamenti del profeta, negli insegnamenti del Corano, nell'Islam in generale, credo anche presso le altre rivelazioni, la vita è una continua adorazione, al punto che, cioè, una volta il profeta insegna: quando mangerai, se ricordi il nome di Dio, è una forma di adorazione. E quando ti diverti, se ricordi il nome di Dio, è una adorazione. Se viaggi, se esci da casa, ricordi il nome di Dio, è una forma di adorazione. E se vai, se vai a letto con tua moglie e ricordi il nome di Dio, è una forma di adorazione. Allora uno dei compagni dice, anche quando facciamo l'amore è una forma di adorazione? Sì, perché se lo fai con qualcun'altra è un peccato. Allora se lo fai nella maniera giusta è una forma di adorazione. La memoria, il ricordo di Dio e la forma... Per cui diventa abitudine. Naturalmente non tutti lo fanno, ci vuole una certa costanza. Ricordare il nome di Dio oggi, poi specialmente nella vita di così materialistica, così eccetera, è difficile naturalmente, però credetemi che non pochi lo fanno. Quando esce di casa dice, ma uscendo da casa, aprendo la porta, scendendo le scale, prendendo l'ascensore, la faccio, non è che deve perdere tempo. Quando monta la macchina, quella preghiera del mezzo, allora era l'asino, il cavallo o il cammello, oggi lo stesso si può dire in aereo, in macchina, in qualsiasi cosa utilizzando, per conservare quella memoria di Dio, per vivere cioè in ricordo di Dio. Tutto questo, cioè, come dicevo, non impedisce la creatività, e questo ci tengo di sottolinearlo, perché purtroppo l'Islam viene etichettato con quella religione statica, ferma, difficile, dura, un po' eccetera, eccetera, eccetera. Invece no. Invece no, perché l'esempio del messaggero del profeta allo Yemen l'ho ricordato, e ricorderò che nel Corano il cambiamento è richiesto in continuazione. Dio, si dice nel Corano, non cambierà la situazione di un popolo, di qualcuno, se questo qualcuno non cambia se stesso. Cioè è vero che dobbiamo avere il punto di riferimento, ma dobbiamo cercare di cambiare nello stesso tempo, di agire, di inventare, eccetera, eccetera. E credo che i musulmani hanno inventato parecchie cose nuove attraverso la loro storia, diciamo, di aurea nel passato. Non è difficile, leggendo il Corano o ricordando gli insegnamenti del profeta, vedere questa richiesta di cambiamento e di responsabilizzazione, malgrado il richiamo continuo al Corano e alla Sunna. La tasiru waziratun wizra ukhra. Nessun'anima supporta il peccato di un'altra. Tu ti ricordi, cerca di ricordare sempre, eccetera, però sei tu il responsabile del tuo destino. Non è Dio, non è qualcun altro, non è il profeta. Dio ne sa naturalmente qual è il nostro destino, e la memoria eterna, trascritta, eccetera, però siamo noi che dobbiamo cercare di mettere in atto, diciamo, il nostro destino, ricordandoci naturalmente della memoria fissa, immodificabile, ma nello stesso tempo rinnovabile. Una volta uno degli insegnamenti del profeta dice, ogni 100 anni il Signore manderà qualcuno che rinnoverà la vostra fede. La fede si rinnova? Sì, si rinnova. Non vuol dire che dobbiamo cambiare ogni 100 anni e inventare un nuovo Corano? No. Oppure un nuovo codice di insegnamento? No. Rinnoverà il modo di capire la memoria, il modo di agire, perché allora in situazioni di allora la capivano in una certa maniera, vivevano con questa memoria, con questo testo, con questa parola in una certa maniera. Oggi si vive diversamente, la si capisce diversamente, la si può interpretare diversamente. E gli esempi sono infiniti. Noi dobbiamo conservare la nostra memoria, per esempio, e concludo, noi musulmani che viviamo in Occidente, musulmani in Occidente, in un ambiente, vuol dire, totalmente diverso da un paese islamico dove tradizioni, abitudini, gente, eccetera, ti facilita il vivere. E qui, bene, dobbiamo lo stesso conservare i nostri principi fondamentali, non possiamo modificarli, però li dobbiamo interpretare diversamente da quelli che vivono là, viverli diversamente da quelli che vivono là. Per cui abbiamo, per esempio, inventato, costituito, per esempio, uno degli esempi, il centro di ricerca e di giurisprudenza islamica in Europa, che ha sede in Inghilterra. Che cosa fa? Ci fa riferimento alla memoria, alla parola di Dio, agli insegnamenti del profeta, ma le interpreta in maniera diversa secondo le necessità, le esigenze, le novità che abbiamo noi musulmani che viviamo in Occidente, che sicuramente in molte volte cambia molto da quello che affrontano i nostri fratelli che vivono là, in Asia, in Africa, in altri paesi, e così la stessa cosa per quanto riguarda, riguarda i nostri fratelli che vivono negli Stati Uniti, nel Canada e in altri paesi in Occidente in generale. Ecco, direi memoria e identità sono due cose, una completa l'altra. Ricordare la memoria ma avere una identità. Per cui io dico ai miei giovani, ai miei figli, ai miei nipoti, ai nostri amici giovani, ricordatevi, avete la vostra identità e nello stesso tempo vivete in Occidente. Cioè sono cose un po' memoria, identità, ma identità diversa, come ho ricordato prima, cioè abbiamo sì una nostra identità e ci teniamo di averla la nostra identità, ma non sarà la stessa identità di quelli che vivono in altri ambienti, in altre situazioni così via. Identità, e concludo, che sicuramente non sarà motivo di scontro. Identità che identità diversa, sicuramente. Anzi, questa identità diversa che noi proponiamo che sia ricchezza per l'ambiente in cui viviamo e non motivo di scontro, speriamo che sia così. Grazie. Io ringrazio anche a nome del pubblico i nostri relatori e li ringrazio personalmente anche per aver rispettato i tempi concordati. Proprio per questo motivo abbiamo circa 20 minuti di tempo da dedicare al dibattito, le persone interessate possono rivolgere domande ai nostri relatori. Posso? Allora, forse mi alzo così. Valentina, per te. Allora, Valentina, sì. Con parole diverse, però tutti e tre avete ricordato come la non memoria di Dio nega l'identità del credente, con forme diverse. Ora, la mia riflessione era questa. Purtroppo spesso la memoria di Dio non è la memoria di Dio, ma è la memoria di singoli fatti o comunque una memoria viziata che fa riferimento a dei miti che poi vengono strumentalizzati. Mi veniva in mente un esempio che è lontano dall'attualità per non introdurre polemiche che sarebbero stupide. La battaglia di Kosovo-Polje non credo sia la memoria di Dio, perlomeno non come è stata proposta e strumentalizzata dalla politica. Quindi la memoria che viene allacciarsi ad altri tipi di identità, non soltanto l'identità religiosa del credente. E questo naturalmente mi provocava una domanda che in parte è stata sfiorata dal suo discorso sulla reinterpretazione dell'identità e della memoria per introdursi in un ambiente diverso. Qual è il rapporto della memoria con l'altro? Cioè non soltanto la memoria del credente in quanto cristiano, in quanto islamico, in quanto ebraico, ma come la memoria del rapporto con l'altro. Le domande? Forse. Guglielmo Barella? Mi chiamo Guglielmo Barella, volevo chiedere questo. Che nelle vostre relazioni si evince che chiaramente l'identità come la memoria sono dinamiche, non rimangono statiche, non rimangono a momenti storici ben definiti. Però la domanda che io vi pongo e mi pongo, quanto tutte e tre le religioni monoteiste e rivelate, come sono l'ebraismo, l'islamismo e il cristianesimo, siano, diciamo, tolleranti verso gli altri? Quanto il concetto di tolleranza, che è un concetto, diciamo, che non sempre appartiene alle religioni monoteiste, sia entrato storicamente e anche però dal punto di vista squisitamente religioso nella nostra attualità. Cioè io ho l'impressione, questa è la mia impressione, poi mi potete correggere se sbaglio, che spesso anche queste perdite di memoria storica e religiosa siano legate a secoli di intolleranza che ci hanno, diciamo, in qualche modo schiacciato e ci hanno anche ingabbiato, nel senso che le memorie si sono un po' sclerotizzate. Anche se poi sono cambiate, chiaro, si sono contestualizzate, sì. Però credo che molti, anche i giovani, si hanno perso, diciamo, memoria, hanno perso identità. Non è solamente per un processo di secolarizzazione della nostra società e quindi di un laicismo che comunque ha messo in discussione anche alcuni valori fondanti delle religioni, ma anche perché spesso le religioni monoteiste, con questo non voglio dire che quelle politeiste siano state migliori, perché hanno però in qualche modo dato un'immagine di intolleranza, un'intolleranza che oggi ovviamente non si combatte più in termini squisitamente di trono, altare, ma che comunque rimane un po', diciamo, l'elemento, diciamo, che riesce difficile al giovane attuale accettare. Cioè questo fatto che le religioni di per sé, le religioni monoteiste, sono basate sulla parola rivelata. In certo qual modo certe cose non possono essere messe in discussione, ancora oggi le posizioni ufficiali, indipendentemente poi se sono quelle ebraiche, islamiche o cristiane, rimangono rigide per certi aspetti. E questo, secondo me, è un'impressione, può darsi che mi sbaglio, porta, diciamo, soprattutto le nuove generazioni a guardare con sospetto in genere alle religioni, perché le vedono comunque che rimangono fondamentalmente dogmatiche, che rimangono comunque chiuse a quella che è l'apertura, tra virgolette, della società laica o comunque di quella secolarizzata, che comunque offre in maniera a volte superficiale, senza dubbio, però, diciamo, offre degli strumenti più seduttivi o più accattivanti, se vogliamo, con un certo relativismo, un certo nichilismo che comunque rimane al fondo della nostra storia e della nostra società. Grazie. Niente, direi che sia la domanda di Valentina sia l'intervento si completano un esatto, po'. Supplementari. Prego. Solo chiedo una precisazione a Don Renner su quel versetto: se mi dimentico di te, Gerusalemme si paralizza a mia destra, ma è Dio che parla lì o è il profeta? Non mi ricordo. È nei Salmi, Davide. Ah, è nei Salmi? Sì, Davide, nei Salmi. Sì. Allora è Davide che parla, non è? Se permette, certo. Più che si paralizzi, si dimentichi, ti shkach. Proprio che si annulli. Allora, è Davide che parla sì. Di è Davide che parla, secondo noi, ispirato da Dio, e ci sono poi dei passi dove è Dio che parla se anche una madre si dimenticasse del figlio e così via. C'è questa memoria, Isaia. Questa fedeltà di Dio, ecco, in Isaia. Dio che non è dimentico dell'uomo, questo vuol dire. Franco Kettmeier. Sì, volevo chiedere se in relazione all'attualità del tema delle radici cristiane in questa convenzione che viene discussa a livello di Unione Europea, poi tre rappresentanti di tre religioni monoteiste, vi sentireste di affermare che non c'è vera memoria e identità, cioè non c'è vera identità se non c'è una radice religiosa all'interno, per esempio, di un progetto o di un contratto di costituzione, come si chiama di dire. E questo mi è mancato nella discussione. C'è questo forte bisogno dell'uomo di avere un'identità religiosa, oppure, secondo il progetto portato avanti da Girard Destin, si dice che in fondo ognuno può portare quello che vuole, non è importante, cioè il concetto laico evidentemente lo dovete contrastare, ma non ho sentito bene come lo volete affermare questa necessità e questa identità religiosa dell'uomo. Ecco. Se non ci sono altre domande, direi che, a parte la precisazione, preverso le domande, il breve intervento anche di Guglielmo, si rivolgevano a tutti e tre i nostri relatori, sì, no? Quindi infatti, diciamo così, 7-8 minuti a testa per rispondere. Ecco. Sono ordine inverso questa volta. Ordine inverso. Ordine inverso. diventa noioso. Il rapporto tra la memoria, l'identità e l'eventuale strumentalizzazione. Da quando l'uomo è uomo, insomma, ha messo del suo, credo, sempre, da Adamo e Eva in poi, ha messo del suo nella interpretazione o nel vissuto della parola di Dio. Naturalmente Dio non ci lascia senza correggerci, però siamo noi eventualmente che ci spostiamo più in là o più in qua. È un argomento attuale naturalmente, quello della estremizzazione nell'interpretazione, e tutti naturalmente ormai lo sentiamo tutti i giorni, le famose fatwa eccetera. Secondo noi questo fa parte della libertà che Dio ha dato all'uomo di rispettare sicuramente la parola di Dio, la vera parola di Dio, il vero insegnamento, ma poi di essere responsabile delle conseguenze della sua interpretazione. Nell'Islam non c'è un clero, non c'è un punto di riferimento personale, per cui la questione è molto aperta, molto dibattuta, ma c'è una responsabilizzazione molto forte in questo senso, che una parola, disse il profeta, un uomo parla, dice una parola e non sa che questa parola potrebbe essere la causa del suo destino per 70 autunni, letteralmente per dire 70 anni nell'inferno. Cosa vuol dire? Attenti, state attenti quando interpretate la parola di Dio. Per cui ecco, l'altra parte, il rapporto della memoria con l'altro, la tolleranza, non esiste, cioè la tolleranza, come sapete benissimo, vuol dire che malvolentieri, insomma, uno supporta un altro. No, per noi non è questione di tolleranza, è questione di credo. Dite crediamo, come crediamo in Muhammad, dobbiamo credere in Gesù, in Mosè, Isacco, Ismaele, eccetera, eccetera, eccetera, in maniera molto crediamo, non è questione di tolleriamo. Per cui non esiste la tolleranza, e chi non crede non è musulmano, non crede in Maria, in Gesù, in Mosè, in tutti, eccetera, eccetera, eccetera, 125 profeti ricordati nel Corano e migliaia altri. Per cui naturalmente poi ritorniamo al discorso di prima. Il principio è una cosa e quello che metto io in atto può essere un'altra cosa, ma questo non condanna e non eventualmente, cioè altera lo spirito del principio. Credo che gli esempi infiniti attraverso la storia e attualmente positivi purtroppo non si dicono, si dimenticano, si parla solo delle guerre, delle crociate, del sangue versato, eccetera, ma non si parla che ben poco di San Francesco o di dei Saladino nel senso positivo, di come quei momenti di... Non si parla dei momenti, che ben poco, purtroppo sì, anche quelli si parla, però insomma non vengono esaltati in maniera così positiva di come l'Islam stesso è riuscito a costruire una civiltà, non solo islamica, cristiani, ebrei, musulmani in Spagna, eccetera, insomma, insieme, vivendo insieme, e dopodiché in Sicilia, Ruggero, eccetera, e tutte esempi oggigiorno nei paesi islamici e in Europa stessa si parla poco di questi momenti così positivi di vicinanza, di collaborazione, di rispetto reciproco, eccetera, eccetera. Si sente normale. Io ieri, cioè, tutti mi guardavano, no, ieri, venerdì. Tutti mi guardavano mentre camminavo in prima fila nel funerale di un mio collega medico, musulmano, cammina in prima fila, cioè trovava molti, cioè, veramente, cioè, qualcosa di, ma lo puoi fare, lo può fare? Insomma, è una normale vita quotidiana della persona, credente o non, ma in questo caso... nel rispetto, cioè, proprio della memoria che ci accomuna tutti quanti. Per quanto riguarda le radici religiose, diciamo, dell'Europa, io credo che non esiste una nazione senza una memoria. Cioè, non si può assolutamente mettere in un secondo piano, con la scusa del laicismo o altro, la memoria religiosa, specificamente religiosa, di un popolo. E allora tocca al popolo europeo di cercare la sua identità, dov'è? E qui la discussione naturalmente è aperta, molto aperta, e molto... noi, e non lo dico perché sono tra la maggioranza dei fratelli cristiani, noi musulmani riconosciamo sicuramente che la memoria di religiosa europea è in prima fila, in prima linea, cristiana, senz'altro, e come no, però crediamo fortemente che sia anche ebraica e islamica, e perché no? E non solo, oggigiorno naturalmente l'Europa non solo né cristiana, né ebrea, né islamica, oggi l'Europa ormai è multietnica, multireligiosa, multiculturale, e bisogna prenderlo in atto, questo, e bisogna sottolinearlo, perché se si sottolinea solo il cristianesimo, secondo me è controproducente. Ecco, ci devo dire che avete qui uno spaccato molto ricorrente. Quando ci si trova tra persone credenti, delle diverse tradizioni e religioni che esistono, non solo c'è tolleranza, ma c'è stima, c'è affetto, c'è una profondità di rapporto, pur nella diversità delle tradizioni, no? E tutti e tre non siamo d'accordo con titoli tipo quello che intravedo lì sulla stampa, terrorismo islamico, giù in fondo, terrorismo... Non esiste il terrorismo islamico, come non c'è il terrorismo ebraico, come non c'è il terrorismo cristiano. Chi pratica il terrorismo non è né musulmano, né cristiano, né ebreo. Il problema è che si paluda di questa identità perché ha una sua convenienza, perché agita le acque. E quindi noi abbiamo persone, ecco, un Bossi che è un terrorista pseudo-cristiano, abbiamo, non ho paura di dire i nomi, Saddam Hussein che... posso giudicare se sia credente o no, ma non lo è stato per molti anni, adesso si è fatto paladino dell'Islam e via dicendo. Sharon non è la persona più religiosa di Israele, no? E non ascolta i dettami del magistero dei credenti di Israele. Queste cose bisogna dirle, perché ci siamo scocciati che ci vengano imputati oggi errori che abbiamo fatto in passato, no? In passato le religioni hanno cavalcato il potere, hanno sostituito i re, hanno fatto gli imperatori, hanno unto i re, eccetera, eccetera, o gli sceicchi, o i sultani, quello che sia. Oggi, grazie a Dio, non abbiamo più questo potere e c'è un altro modo di presentarsi. E a me sembra importante il ruolo, la funzione delle religioni, perché aiuta a rendersi conto che il mondo non è solo un insieme di problemi che vanno risolti, ma che il mondo è segnato anche dalla dimensione del mistero. Diceva Gabriel Marcel, i problemi ce li ho davanti, posso più o meno affrontarli e risolverli. Il mistero è qualcosa di più grande che ci avvolge, è più grande di noi. È l'assoluto, è l'eterno, è la perfezione, comunque si voglia chiamarlo. Le religioni sono segnali indicatori. Molto spesso il segnale indicatore si è paludato, si paluda o si paluderà di essere il punto di arrivo. Questo errore capita agli uomini. Gesù diceva, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Noi diciamo, sulla cattedra di Gesù si sono seduti i cardinali, e nel mondo musulmano, non so, sulla cattedra di Muhammad si sono seduti gli ulema pagati dallo Stato per fare il gioco dello Stato, pensiamo in Turchia o altrove, no? E c'è questa Verschiebung, questo spostamento, questo scollamento di orizzonti. Le religioni hanno la funzione di indicare l'assoluto, e il linguaggio migliore con cui lo possono fare non è quello dogmatico, benché sia una forte tentazione, il potere, ma è il linguaggio che Pettazzoni e altri chiamano affabulatore, no? Il linguaggio della favola, del mito. Le religioni sono espresse con i miti, no? Sì, noi usiamo certe immagini, certe narrazioni, ma sappiamo che sono narrazioni. Eppure la narrazione non è un tradimento della verità. E gli indiani Poni distinguono tra i miti che sono storia vera e i miti che sono storia falsa. I miti sono storia vera, anche le narrazioni dei nostri testi sacri sono storia vera, anche se in categorie, in immagini transitorie, provvisorie, che dicono e non dicono. Il reale resta sempre dietro, nessuno può dire Dio. Chi dicesse io ho definito Dio è un essere volgare non credente. È un volgare non credente chi dicesse io ho definito Dio, ho fatto la quadratura del cerchio, ho realizzato l'impossibile. No? Dio se ne ride di loro, direbbe la Bibbia. No? Quindi nel loro impegno però le religioni cercano di dire, di porre alcuni punti fermi, alcune pietre miliari lungo il cammino. E questo è un tentativo, è un impegno di essere in cammino verso la verità, di affermare che esiste una verità, che la stiamo cercando. Dice un motto molto famoso, bisogna diffidare di chi ha trovato la verità e confidare in chi la sta cercando. Diffidare di chi l'ha trovata, di chi l'ha fatta sua, no? Cioè da stare molto attenti. Le religioni hanno però il coraggio di dire esiste la verità, ci si è rivelata, si è fatta intravedere, cerchiamo di dirla, cerchiamo di farla, di realizzarla, ma è sempre un tentativo, è sempre un forse, un racconto che riporta Martin Buber, no? Quel ateo che va dal rabbino e lui dice forse è vero, cioè in cui credo, forse. No? Le religioni stanno scoprendo un'umiltà nuova nel proporre la verità, sanno di non essere padrone della verità, ma sanno che c'è una verità e bisogna avere il coraggio di cercarla, non con il modello talk show, dove ognuno va lì, scarica la sua verità, vengono messe in fila, pigliate quello che volete, tanto è tutto uguale. Questa è la negazione dell'uomo. The abolition of man, diceva Lewis. The abolition of man. Bisogna avere anche il coraggio di osare la verità. Lewis, il famoso filosofo inglese, della lettera di Berlicche, eccetera, eccetera. The Pilgrim Regress, altri libri molto interessanti. E le religioni fanno un po' quello che diceva Don Mazzolari, riferito alla Chiesa, la Chiesa non tollera ma perdona, il mondo tollera ma non perdona. Per il mondo, per il mondo laicista, per il quotidiano, così tu puoi fare tutto, sei libero, quindi puoi fare come ti pare. Le religioni cercano di dire no, tu non sei libero in maniera assoluta, ci sono delle regole, cerchiamo di definirle, di descriverle, cerchiamo. Il mondo ti lascia fare tutto, ma non ti perdona. Se cadi, sei fregato. La Chiesa, e penso di poter intuire anche, le religioni cercano di stabilire alcune regole, non tollerano tutto, non digeriscono tutto, non lasciano passare tutto, però poi perdonano, però poi ti sollevano, però ti riaccolgono se sbagli. Questa è una visione importante. Per questo le religioni devono considerare l'altro, e sono tutte orientate all'altro, perché la memoria è sempre memoria di incontro. Per noi memoria di incontro con Cristo, con Muhammad, con i grandi profeti. La memoria è sempre memoria di un incontro e quindi di un fare entrare l'altro nella mia vita. Io non tengo in memoria tutte le volte che mi sono fatto la barba, tutte le conferenze che ho fatto, sono cose di poco conto. Tengo in memoria gli incontri, l'altro che entra nella mia vita. Questo mi plasma, mi fa crescere, mi fa maturare. E allora è importante anche su questo dibattito, a mio parere, un po' troppo acuito negli ultimi tempi sulle radici cristiane dell'Europa, è importante parlare delle radici religiose dell'Europa, come ha già fatto l'Imam Brigesh, no? Le radici religiose, perché a noi preme che Dio viva nell'uomo e che l'uomo viva al cospetto di Dio. È relativo quale sia il linguaggio che l'uomo sviluppa, cioè la religione a cui aderisce. E onestamente, diceva Brigesh, sono varie le religioni che hanno plasmato l'Europa, primariamente il cristianesimo, ma non solo. A noi preme non il trionfo del cristianesimo, sono tempi passati. A noi preme che l'uomo continui a concepire Dio, a dialogare con Dio, a litigare con Dio. Genesi 32, Giacobbe che litiga con Dio e rimane sciancato da questo scontro con Dio, no? A noi preme che l'uomo consideri Dio e non si fermi soltanto alle mediazioni necessariamente manchevoli, provvisorie e lacunose che sono. Allora, le radici religiose dell'Europa. Io dico, porto simbolicamente dei segni che sono questo rosario ortodosso, perché una radice religiosa dell'Europa è il cristianesimo, ma porto anche questo anello con le greche, perché senza la filosofia, la cultura e l'arte greca non saremmo l'Europa che siamo. Il cristianesimo troviamo un grande albero, ma non è l'unico albero. Ci sono tante radici nell'Europa, non dobbiamo guardare da monocoli, non dobbiamo guardare da persone con un occhio solo. C'è uno scenario molto più ampio, quindi l'altro deve fare un passo avanti e deve essere ritenuto necessariamente parte integrante della nostra identità. Posso aggiungere una battuta? Leggendo sul dizionario dei miei figli, ho detto voglio andare a vedere cosa vuol dire memoria. Tra l'altro diceva uscire di memoria vuol dire impazzire. Bene, posso rivenderla. Bene, tutto sommato non avrei neanche bisogno di aggiungere chissà quanto, perché veramente è stato detto tutto e molto bene. Due piccole annotazioni, cominciando dal fondo. Le radici cristiane dell'Europa, è stato detto, anche ebraiche e anche islamiche, certamente, perché se noi abbiamo una settimana lo dobbiamo al mondo ebraico, se esiste l'algebra lo dobbiamo all'Islam, se esiste se conosciamo la filosofia, sono stati i filosofi musulmani che hanno preso i filosofi greci, li hanno tradotti in arabo, i traduttori ebrei l'hanno passato in latino e sono arrivati in Europa. E il mondo cristiano l'ha preso e l'ha elaborato. Quindi voglio dire, radici cristiane è un po' limitativo. Dobbiamo anche aggiungere che con i pregi e i difetti, ma anche l'illuminismo ha avuto un peso nella creazione dell'Europa di oggi, con i suoi limiti, con i suoi vantaggi, ma anche con i suoi limiti. Bene, tolleranza, scusate, per me è una brutta parola, perché tollerare significa sopportare, un po' a fatica. Secondo me si deve parlare di qualcosa di molto diverso, si deve parlare di rispetto. E questo rispetto lo troviamo proprio scritto a chiare lettere, diffuso in tutto il testo della Bibbia ebraica, sicuramente anche nelle altre tradizioni, non solo, ma proprio attraverso quelle interpretazioni che spesso un po' banalmente vengono etichettate come interpretazioni rabbiniche. Rabbiniche sì, in quanto sono stati loro che le hanno raccolte e poi messe per iscritto, ma sono quelle interpretazioni che nascono proprio dal metodo del Midrash insegnato da Dio a Mosè sul Monte Sinai. Interpretazioni che partono dall'osservare che nel Decalogo si parla, come dicevamo, di due comandamenti del sabato, no? Bene, la motivazione del sabato nell'Esodo è perché in sei giorni il Signore fece il cielo e la terra, il mare quanto essi contengono. La motivazione del sabato nel Deuteronomio, affinché si riposi il tuo servitore e la tua ancella come te, così ti ricorderai che sei stato schiavo in terra d'Egitto e ti ha riscattato di lì il Signore. Quindi una motivazione cosmica e una motivazione sociale. Abbiamo detto che le due versioni sono contemporanee e ugualmente importanti. Che cosa ci vuol dire questo? Che un rapporto corretto a livello orizzontale, cioè tra uomo e uomo, non esistono più né servitori né padroni, perché tutti rispettano, tutti hanno il diritto del riposo, è una necessità cosmica. Perché? Ecco qui che interviene il Midrash dicendo, perché se noi osserviamo, la Bibbia ci racconta, come diceva giustamente, scusate i nomi, io sono negato, Paolo. Ecco Paolo, come diceva giustamente Paolo, la Bibbia certo ci racconta delle storielle, ma non sono storielle, sono la realtà più intima delle cose. Bene, la Bibbia ci racconta che Dio ha creato infiniti esseri viventi, ma un solo essere umano. Perché? Il Midrash lo dice. Perché nessuno possa dire all'altro, i miei antenati valevano di più dei tuoi. Allora, a questo punto, è chiaro che il rispetto, l'armonia, possiamo tradurre la parola armonia prima in arabo, poi in ebraico. Salam, shalom. Di solito si traduce pace, non è vero. Perché pace significa io concedo qualcosa a te, tu concedi qualcosa a me. Salam e shalom derivano dalla radice di qualche cosa che si completa. È un completarsi a vicenda. Shalem in ebraico vuol dire proprio completo. Quando noi ci rendiamo conto che il nostro essere diversi ci arricchisce l'uno con l'altro, non facciamo tolleranza, facciamo rispetto. E dove questo viene a mancare è perché, a mio avviso, è venuta a mancare la memoria di questi insegnamenti.